di noi frate tutto l'anno. Sanno addirittura ciò che sto pensando. Dietro monitor capisco come fanno, ma nella vita vera questi dormono. Sto in giro tra i quartieri con la gente mia. Gran parte di questi sta in periferia. Non è che scegliamo e che viviamo qua. Non che ridiamo ma neanche piangiamo fra. Si qua tutti i giorni poi finisce a bere. Perché se ci abiti c'è niente da vedere. Lei si preoccupa che una di queste sere io ci possa rimanere. Però non è questo che preoccupa me. Ma chi parla di me senza avere niente a che fare con me. Dicono quello non è vero, questo non va bene, Qualcuno mi dà retta, non ci posso credere. Però lo fanno di continuo. Però lo fanno di continuo. Giocano a nascondino. Se ne vanno quando giro. Però me stanno versando il vino. Tu resti attaccato al filo, fra. Parlano di noi, frate, tutto l'anno. Sanno addirittura ciò che sto pensando. Dietro un monitor capisco come fanno. Ma nella vita vera questi dove stanno? Dove stanno? Sto in giro tutti i giorni, questi dove stanno? Dove stanno? Fra questi dove stanno? Prendo un altro bicchiere che questa sera fa caldo. Un'altra sera cantando da un palco. Tu un'altra sera da pianto con la tastiera accanto. Ho paura che domani non cambierà tanto. Mi sveglio in questo hotel con le stelle dorate. Servizio in camera fate, prego, zero telefonate. Se ripenso a quanto è stata dura uscire insieme a mia madre. Adesso invece guardo ogni fine mese e comincia l'estate. Quindi mi stendo su qualche cliché. Tipo una spiaggia bianca con lei stanca che dorme con me. Non c'ho un cazzo in banca ma sorrido fra perché so che di dischi in testa ce n'ho ancora almeno tre. Perché è la sola cosa a cui mi dedico. Non ho mai fatto un album identico. È vero ogni tanto mi replico, ma solamente quando mi medico. Ne accendo tre di fila con lo sguardo di medico. Mi è appena arrivato il saldo, ciò mi prendo quanto mi merito. Parlano di noi frate tutto l'anno. Sanno addirittura ciò che sto pensando. Dietro un monitor capisco come fanno. Ma nella vita vera questi dove stanno? Dove stanno? Sto in giro tutti i giorni, questi dove stanno? Dove stanno? Fra questi dove stanno?